Luci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, lavorare insieme fianco a fianco contro ogni difficoltà, da quelle economiche a quelle quotidiane, non solo facendo squadra ma dividendo onori e oneri. In questa battuta era chiuso lo spirito del co-working, termine inglese che racconta una nuova ricetta anticrisi. Vi parliamo oggi di due esperienze milanesi, ma si trovano in tutta Italia. Provate a cercare la parola su internet e vedrete. Oggi però ascoltate bene gli imprenditori start-uppers, vale mille astuzie. Piano C. Realizza un sogno delle mamme lavoratrici, ma anche dei papà. Spazi di co-working per lavorare insieme, pur con professioni differenti. Ci sono sale per riunioni, eventi, formazione hobby e servizi come il Co-Baby. Professioniste dedicate ai bimbi da 0 a 3 anni, dalle 8.30 alle 19 di sera, attività per bimbi più grandi dalle 4 del pomeriggio. E il salvatempo. Lavanderia, spesa, calzolaio, cena pronta da portare a casa. È un sogno, vero? Ci racconta come lo ha realizzato Riccarda Zezza, cofondatrice di Piano C. 40 anni, napoletana, per 15 anni multinazionali in Italia e all'estero, da 4 anni mamma, da un anno bimamma e da giugno 2012 appunto imprenditrice. Io sono mamma da 4 anni e mezzo. E già con la prima figlia ho vissuto un po' di difficoltà, ma non tanta, perché lavoravo in un'azienda che si chiama Nokia e che ha la flessibilità come regola principale. Poi ho cambiato lavoro e sono andata a lavorare in una banca ed è arrivato il secondo figlio e lì mi sono veramente scontrata con le difficoltà degli orari rigidi e soprattutto secondo me l'inefficienza del lavorare per timbro del cartellino invece che per obiettivi. E ho pensato a un certo punto della mia vita, dopo i 40 anni, forse posso fare qualcosa per cambiare le cose. In che cosa consiste questo piano C e questo luogo di lavoro aperto alle famiglie? Si chiama piano C perché l'idea è che se il piano A è dedicarsi esclusivamente alla carriera e il piano B è dedicarsi esclusivamente alla famiglia, forse è possibile pensare a un piano C che rimetta insieme tutto e che innovi veramente la situazione. Quindi piano C, oltre ad essere uno spazio, è anche proprio l'idea di un modello organizzativo diverso che mette al centro il lavoro per obiettivi. E il lavoro per obiettivi non è un'utopia, perché in America si sta già sperimentando e si sta già sperimentando che i risultati migliorano nettamente. Come si lavora tutti in uno stesso posto, compresi i bambini, e come si può fare fatturato lavorando in questo modo? Piano C è nato a Milano da 2 mesi praticamente, quindi ha avuto quasi un anno di gestazione, e il primo spazio, noi lo chiamiamo primo perché per noi è un pilota, è a Milano in via Simone d'Orsenigo, sono 250 metri quadri e mettono insieme 3 cose, uno spazio di co-working, 18 postazioni, un'area che noi chiamiamo co-baby, quindi sono 2 sale per bambini di diverse età custodite da educatrici, e delle sale invece per tutto quello che riguarda la formazione, le riunioni, il fare community, e poi c'è anche una cucina. Vogliamo capire chi vi ha aiutato, chi ha aiutato te a fare questa svolta, e soprattutto se ci sono dei suggerimenti che puoi dare ad altri per mettere in piedi questo spazio di co-working, perché è un'idea replicabile in tutte le città. Sì, e oltretutto abbiamo già penso più di 10 richieste da tutta Italia ad aprirne altri, quindi la sfida di creare un modello replicabile è sul piatto. Dall'idea alla realizzazione c'è una montagna da scalare. A volte si dice basta l'idea, non è vero. Ecco, soldi, aiuti. È stato l'incontro con Carlo Mazzola, che è il mio socio principale. Noi siamo 7 soci in tutto, però siamo partiti noi 2, Carlo è l'altra metà di me, nel senso che è una persona esperta di finanza, che aveva lo spazio da mettere a disposizione, che ha creduto nel progetto e mi ha dato molta delega sull'esecuzione. Quindi sono stati, diciamo, talenti personali e capitale personale, incubatori, università, altre strutture, le istituzioni? Abbiamo avviato il dialogo col Comune di Milano, che devo dire è molto accogliente, disponibile a parlare, però ha dei tempi un po' troppo lunghi. Noi volevamo aprire in fretta, almeno questa prima esperienza, e quindi abbiamo messo insieme solo il capitale nostro per ora. Qual è il modello di business che voi state portando avanti? Guadagnate dallo sfruttare lo spazio, no? Il modello di business è sperimentale, basato un po' sull'esperienza fatta dai co-working in generale, e i co-working nel mondo sono più di 1500 in questo momento, gli spazi di co-working, e si è visto che il modello si poggia per metà sull'affitto dell'area co-working, solo per il 50%, mentre l'altro 50% viene dalle altre attività. Cosa sono le altre attività? Sono l'erogazione di servizi, per cui per esempio noi abbiamo i servizi salvatempo, che aiutano le persone a sbrigare tutte le commissioni mentre lavorano. Arrivi, ci lasci la roba da lavare, te la ridiamo lavata, ti facciamo la spesa, ti diamo la cena pronta, ma soprattutto la formazione e gli eventi. Ecco, la formazione è interessante, perché le donne che lavorano e che magari si mettono in proprio hanno bisogno comunque sempre di aggiornarsi, nonostante ovviamente la vita familiare, anzi a maggior ragione. Oltretutto le donne sono quelle che si formano di più fino ad una certa età, poi a una certa età succede qualcosa per cui la formazione delle donne arriva quasi a zero. Abbiamo fatto un sondaggio quest'estate chiedendo chiedendo a 300 donne che cosa avrebbero voluto da uno spazio del genere, e lo scambio di competenze è al secondo posto tra le priorità, viene prima dei servizi per i bambini. La prima risposta è stata rompere l'isolamento, quindi c'è anche una sensazione di solitudine molto forte, e la seconda è stata continuare a formarmi, continuare ad imparare anche dalle altre. Si dice Talent Garden, TAG Milano. E si pensa al più grande spazio di co-working in Italia, uno dei più grandi in Europa. Situato al numero 18 di via Merano, nella città meneghina, questo grande edificio di 3.000 metri quadri è il nuovissimo campus urbano dedicato completamente alle start-up, aziende innovative e high-tech. Talent Garden Milano è una società costituita da tre delle più innovative aziende italiane: Talent Garden, appunto, Frontiers of Interaction, Startup Business e l'imprenditore Alfredo Cazzola. Insieme hanno organizzato una nuova edizione, la più gettonata tra quelle italiane, di Startup Weekend Milano, punto d'incontro per coloro che sognano di realizzare la propria startup e condividere idee innovative nell'ambito digitale. Un fine settimana che anche stavolta non ha deluso le aspettative. 185 iscritti, 13 team, 4 vincitori, 13 progetti di startup al via. Davide Dattoli è il fondatore del primo Talent Garden a Brescia e ideatore del progetto TAG come network di co-working. L'idea di Talent Garden è nata proprio da una necessità, come spesso accade, ed è nata dalla necessità mia e di altre persone del volere stare vicini, essendo tutti in uno stesso settore e volendo dire, al posto che stare a un chilometro di distanza, con ognuno al suo ufficio, molti lavorano da casa, condividiamo uno spazio, condividiamo un posto di lavoro, e questo ci permette, stando vicini, di avere un luogo magari più bello, perché condividiamo anche banalmente i costi, ma soprattutto ci permette, nello stare vicino, di contaminarci in modo quotidiano. Quando è nata questa idea e soprattutto che cosa comprende? L'idea è composta da uno spazio di lavoro che è partito a Brescia nel dicembre del 2011, in cui una serie di persone si sono messe vicine e hanno condiviso questo spazio di lavoro. La vicinanza tra persone di talento fa sì che nello stare vicino, davanti a un caffè, davanti a una pizza la sera, possono nascere nuove idee. Però non è solamente un fattore relazionale, voi avete anche fatturato e progetti. Assolutamente sì, perché ogni una delle persone che sta all'interno di Talent Garden paga a Talent Garden un affitto per tutti i servizi che riceve. Dall'altro, lo stare vicino alle altre persone fa sì che ogni singola realtà all'interno aumenti il suo fatturato, perché si crea un'accelerazione naturale tra le realtà presenti all'interno del luogo che, scambiandosi non solo idee ma anche clienti, contatti, collaborazioni, lavori, permettono a ognuna delle realtà coinvolte all'interno di aumentare il proprio network e quindi poi i propri fatturati. Dal Talent Garden sono nati tanti altri Talent Garden. Chi vi ha aiutato a espandere questa idea e a fare fatturato? Ma tantissimi amici in giro per l'Italia, perché Talent Garden è diventato un modello simile al franchising, quindi delle persone in giro per l'Italia hanno detto: ci piace questa esperienza, nata a Brescia, vogliamo espanderla. Chi vi ha dato una mano, diciamo, come non so, incubatori, come istituzioni, come business angel, i soldi da chi sono arrivati? Noi abbiamo trovato un grandissimo referente nella piccola e media impresa italiana, in quelle imprese via di mezzo tra private ma dallo stesso punto di vista anche istituzionali, che hanno creduto in questi progetti, come Editoriale Bresciana a Brescia, l'editore del giornale di Brescia, il più importante giornale locale, come sono stati una serie di imprenditori nel Padovano e il gruppo Ferretti a Bergamo, che credono in un progetto di questo tipo che va a sviluppare il territorio, a creare fatturati per un settore come quello del digitale, che è molto in sviluppo in questo momento e che ha bisogno di cose di questo tipo. E proprio questo supporto della piccola e media impresa è stato quello che ci ha dato la spinta più veloce. Di che cosa hanno bisogno le aziende per essere aiutate? Hanno bisogno senza dubbio di capitali e soprattutto di praticità. Molte volte l'imprenditore digitale ha bisogno di un supporto dal punto di vista più tradizionale del business. Questo grande supporto gli può essere dato da tutti i partner che noi coinvolgiamo a livello territoriale per costruire le sedi, che quindi diventano i primi investitori delle idee e che diventano il supporto industriale per l'idea stessa. L'esperienza, ovviamente voi avete un'esperienza di spazio. Com'è la convivenza, per esempio, tra voi e Startup Business? Cioè, che cosa avete, qual è il vostro accordo? Ma l'accordo è stato assolutamente facile da trovare, perché entrambi abbiamo un'idea simile. Noi diamo una serie di servizi dal punto di vista fisico, quindi diamo una sede fisica. Dove siete? Ecco, dove siete? Siamo a Milano, in via Merano, nella vecchia sede dello SMAO, quindi la tecnologia a Milano è nata un pochino qui e oggi si trasforma e va a riprendere questo luogo vita proprio grazie a questa nuova operazione che si chiama Talent Garden Milano, che è stato un frutto di un accordo tra Startup Business, tra Talent Garden, tra Frontiers of Interaction, questi tre partner diversissimi che puntano dall'online alla parte di eventi, alla parte di infrastruttura, a creare un po' uno dei centri delle startup in Italia con visibilità internazionale ed euromediterranea. Noi abbiamo deciso di focalizzarci sul settore del digitale, della comunicazione, del web, della creatività e dell'innovazione, quindi un settore molto di nicchia, se vogliamo, perché crediamo che luoghi come questo, quindi luoghi che attraggono diverse tipologie di persone, è fondamentale che siano il più verticali possibili, perché l'essere troppo diversi, avere competenze troppo diverse in uno stesso luogo non crea più quella contaminazione. Oggi è anche questo, secondo me, è uno dei settori che ha più potenziale e che sta crescendo di più. E ora combattete insieme la crisi. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci Voci di Piccola Impresa è su Twitter con l'account Voci PMI Radio 24, 24 in numero, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. E un saluto, Anna Marino.